Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt, io sono Maurizio Melis, questa sera parliamo di LED. Sono arrivati, stanno arrivando questi LED, ormai cominciamo a vederli apparire. Abbiamo qualche dato per cominciare. In Italia circa il 16% dell'energia viene utilizzata per l'illuminazione, parliamo del 16% del totale di consumo elettrico nazionale. Ebbene, i LED, che come dicevamo sono una tecnologia quasi matura, si prevede che consentiranno un risparmio energetico di circa il 50% di questa quota di energia destinata all'illuminazione. È un obiettivo che verrà raggiunto definitivamente attorno al 2025, ma indubbiamente già oggi ci sono delle applicazioni nelle quali i LED sono una delle soluzioni migliori. Ne parliamo con Marina Berti, docente di fisica sperimentale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, la quale è coinvolta tra l'altro in un progetto che si chiama Aladdin. È un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico che punta a migliorare tutte le tecnologie che stanno intorno al LED, quindi non solo il LED stesso, e in generale punta a una maggiore diffusione industriale. Buonasera Berti. Buonasera, buonasera. C'è un dato da cui dobbiamo partire per onestà: comprare oggi una lampada LED per casa non è un grande vantaggio, però abbiamo detto che le cose cambieranno. Ecco, quindi come funzionano e quali sono i vantaggi? Allora, i LED sono diodi emettitori di luce. I diodi sono dei dispositivi elettronici che, quando sono alimentati, lasciano passare la corrente solo in una direzione e il LED emette luce quando viene attraversato dalla corrente, ed emette luce con tanta maggiore intensità quanto più intensa è la corrente che lo attraversa. Per le loro caratteristiche costruttive possono emettere luce in tutte le regioni dello spettro visibile, quindi ci sono LED rossi, LED blu, LED verdi, e la combinazione di loro può dar adito alla costruzione di lampade di luce bianca. Aggiunto a questo il fatto che funzionano in bassa tensione, quindi non hanno bisogno di alimentazioni ad alta tensione per funzionare, e possono quindi essere estremamente utili in situazioni in cui l'alimentazione sia da fare in loco, cioè quelle applicazioni che si chiamano stand alone. Cioè dei sistemi in cui si immagazzina l'energia, per esempio di giorno, accumulata attraverso un pannello solare e poi utilizzata di notte. Questo è un classico. Ci sono città all'estero in cui questo tipo di tecnologia viene utilizzato, per esempio a Los Angeles le fermate degli autobus ormai sono illuminate da lampioni che assemblano un sistema a pannelli solari con un sistema di illuminazione a LED. Il tutto a bassissimo costo di esercizio, ancora ad elevato costo di installazione. Hanno dei vantaggi e degli svantaggi a seconda di come uno li guarda nella loro emissione di luce. Sono luci molto intense ed estremamente direzionali, ed è per questo che già oggi sono utilizzate per i fari degli automobili, per i semafori, per applicazioni di tipo teatrale vengono spesso utilizzate, e per applicazioni di carattere illuminazione pubblica, dove lo svantaggio dei costi ancora oggi estremamente elevati potrebbe essere colmato per il fatto che queste lampadine durano molto, ma molto di più, sia delle luci di incandescenza che delle altre luci che vengono utilizzate per l'illuminazione pubblica, e quindi c'è un vantaggio nella scarsa necessità di dover cambiare le... Che spesso è un costo che peraltro supera quello delle lampade, cioè il costo di sostituzione di una lampada dentro un lampione è molto più legato alla manodopera che non al costo fisico della lampada. Senta, altre applicazioni? Altre applicazioni, essendo intrinsecamente un tipo di fonte luminosa che è meno calda di quanto non siano le altre usuali lampadine, potrebbe essere utilizzata per l'illuminazione di opere d'arte, per esempio nei musei, in modo estremamente mirato, in particolare per quel tipo di manufatti che possono essere deteriorati dal calore di emissione di una lampada. anche i tessuti, per esempio nelle vetrine, che possono virare colore quando sono sottoposti a radiazione luminosa incandescenza. Ecco, dove tra l'altro funzionando in bassa tensione ci sono meno rischi legati alla sicurezza di un impianto in alta tensione, 220 volt, che insomma può creare qualche problema. Ci sono anche degli altri vantaggi di tipo fisico, sono fonti di luce solida, tanto per cominciare, cioè non si rompono come le lampadine. Sono degli oggetti molto piccoli, sono solidi. C'è a Filadelfia un ponte il quale è illuminato con un numero elevatissimo di LED, è un ponte di ferro sul quale passa un treno e il ponte si illumina al passaggio del treno e questo tipo di lampade, che appunto sono lampade a stato solido, sono estremamente poco distruggibili dalle vibrazioni e quindi sono quelle che sono principalmente dedicate per operare in situazioni in cui le vibrazioni possono creare danni notevoli all'operatività. Va bene, allora Berti, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a lei. Va bene, questo è tutto, domani parliamo di pannelli radianti, voi invece scriveteci a mrkilowatt@radio24.it. Buona serata.